Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Il più preoccupato dei quattro amici era senza dubbio D'Artagnan. Il nostro cadetto di Guascogna era di indole previdente e quasi avara, e con questo, andate a spiegare le contraddizioni, tanto vanitoso da dare quasi dei punti a Porthos. Alla preoccupazione della vanità egli aggiungeva in quel momento un'inquietudine meno egoista. Per quanto avesse cercato di informarsi di Madame Bonacieux, non gliene era giunta ancora notizia di sorta. Monsieur de Tréville ne aveva parlato alla regina, che ignorava dove si trovasse la giovane merciaia, e aveva promesso di farla cercare, ma tale promessa era assai vaga, né rassicurava D'Artagnan. Athos non usciva dalla sua stanza, deciso a non fare un passo per equipaggiarsi. Porthos continuava a passeggiare, le mani dietro la schiena, scuotendo il capo dall'alto in basso e dicendo: «Perseguirò la mia idea». Aramis, preoccupato e mal pettinato, non diceva nulla. Da questi lugubri particolari si può dunque capire che la desolazione regnava nella comunità. I tre amici, perché come abbiamo detto Athos aveva giurato di non muovere un dito per equipaggiarsi, i tre amici pertanto uscivano assai di buon'ora e rincasavano tardissimo. Porthos fu il primo ad agire. Era un uomo d'azione quel degno Porthos. D'Artagnan lo scorse un giorno che si incamminava verso la chiesa di Saint-Leu e istintivamente lo seguì. Porthos entrò nel sacro luogo dopo essersi arricciato i mustacchi e lisciato il pizzo, il che da parte sua annunziava sempre intenzioni da grande conquistatore. D'Artagnan prese qualche precauzione per celarsi, sicché Porthos credette di non essere visto. C'era appunto una predica e la chiesa era affollatissima. Porthos approfittò della circostanza per sbirciare le dame. Grazie alle cure premurose di Mousqueton, la facciata era ben lungi dal denunziare la miseria dell'interno. Il feltro era sì un po' liso, la penna un tantino scolorita, i ricami sciupati, i pizzi assai malandati. Ma nella penombra tutte quelle inezie sparivano e Porthos era pur sempre un bel Porthos. Sul banco più vicino al pilastro a cui Porthos e lui erano addossati, D'Artagnan notò una di quelle pseudo beltà già mature, gialliccia, un po' risecchita, ma rigida e altezzosa sotto la cuffia nera. Gli occhi di Porthos si abbassavano furtivi sulla dama, poi sfarfallavano lontano nella navata. Dal canto suo la dama, moglie del procuratore Coquenard, di tanto in tanto arrossiva, con la rapidità del fulmine lanciava un'occhiata al volubile Porthos, ed ecco gli occhi di Porthos subito sfarfallare con furia. Si trattava evidentemente di un maneggio che pungeva sul vivo la dama con la cuffia nera, perché si mordeva le labbra a sangue, si grattava la punta del naso e si dimenava disperatamente sulla seggiola. Vedendola qualcosa, Porthos si arricciò di nuovo i mustacchi, si lisciò una seconda volta il pizzo e cominciò a fare cenni a una bella dama che stava vicino al coro e che non era soltanto bella, ma certo doveva essere una gran dama. Difatti aveva dietro di sé un negretto che aveva portato il cuscino su cui ella s'era inginocchiata e una cameriera che reggeva la borsa con tanto di stemma, contenente il libro da messa. La dama con la cuffia nera seguì lo sguardo di Porthos in tutti questi maneggi e si avvide che si soffermava sulla dama a cui appartenevano il cuscino di velluto, il negretto e la cameriera. Intanto Porthos giocava un gioco serrato, strizzatine d'occhi, dita appoggiate sulle labbra, sorrisetti assassini che assassinavano veramente la bella disdegnata. Questa, infatti, quasi per un mea culpa e battendosi il petto, emise un talmente energico che fece voltare dalla sua parte tutti gli astanti, perfino la dama sul cuscino rosso. Porthos tenne duro, benché avesse capito benissimo, ma fece finta di niente. La dama sul cuscino rosso fece colpo, perché era bellissima, sull'altra con la cuffia nera, che in lei vide una rivale davvero temibile. Fece colpo su Porthos, che la trovò più graziosa dell'altra. Fece colpo su D'Artagnan, che riconobbe la dama di Man, di Calais e di Douvres, colei che il suo persecutore, l'uomo dalla cicatrice, aveva salutato col nome di Milady. Finì il sermone. La procuratrice si diresse all'acquasantiera. Porthos la precedette e invece di un dito vi immerse tutta la mano. La dama sorrise, credendo che Porthos si desse da fare per lei, ma presto fu crudelmente disillusa. Gli si avvicinò di tre passi e subito egli volse la testa, senza più togliere gli occhi di dosso, alla dama sul cuscino rosso, che si era alzata e veniva avanti seguita dal negretto e dalla cameriera. Quando fu accanto a Porthos, quegli trasse la mano gocciolante dall'acquasantiera. La bella devota sfiorò con la mano affilata la grossa mano di Porthos, sorridendo si fece il segno della croce e uscì di chiesa. Era troppo per la procuratrice, la quale si convinse che tra la dama e Porthos corressero rapporti galanti. Se fosse stata una gran dama sarebbe svenuta, ma siccome era soltanto la moglie di un procuratore, si accontentò di dire al moschettiere con rabbia compressa: «Monsieur Porthos, e a me non l'offrite l'acqua benedetta?» Al suono di quella voce Porthos sobbalzò come uno che si svegliasse da un sonno di 100 anni. «Sì, signora!» esclamò. «Siete proprio voi! Come sta vostro marito, quel caro Monsieur Coquenard? È sempre avaro, come al solito, ma dove avevo gli occhi, che non vi ho neppure veduta per tutte le 2 ore di questa predica!» «Ero a 2 passi da voi, signore!» rispose la procuratrice. «Ma non mi avete vista perché non facevate che guardare la bella dama a cui avete offerto l'acqua benedetta.» Porthos finse l'imbarazzo. «Ah», disse, «avete notato...» «Avrei dovuto essere cieca per non vederlo.» «Sì», disse con noncuranza Porthos, «è una duchessa mia amica, con la quale posso incontrarmi assai di rado per via della gelosia del marito. Mi aveva fatto avvertire che sarebbe venuta oggi solo per vedermi in questa misera chiesa di questo sperduto quartiere.» «Monsieur Porthos», disse la procuratrice, «avreste la bontà di offrirmi il braccio per 5 minuti? Discorrerei volentieri con voi.» «Ma come no, signora!» rispose Porthos, strizzando l'occhio a se stesso come un giocatore che ride del tiro che sta per fare. In quel momento D'Artagnan passava all'inseguimento di Milady. Gettò un'occhiata a Porthos e colse quello sguardo trionfante. «Ehi, ehi!» disse tra sé, ragionando con la morale stranamente facile di quell'età galante. «Eccone uno che rischia di essere equipaggiato per la data voluta.» «Siete proprio il beniamino delle belle, Monsieur Porthos!» esclamò sospirando la procuratrice. «Ma capirete», rispose Porthos, «con un fisico come quello che la natura mi ha dato, non mi mancano le buone occasioni. Dio mio, come gli uomini dimenticano in fretta, esclamò la dama alzando gli occhi al cielo. Meno in fretta delle donne, mi pare, rispose Porthos, perché alla fin fine, signora, io posso dire di essere stato la vostra vittima quando, ferito, morente, mi sono visto abbandonato dai chirurghi, io, il rampollo d'illustre famiglia che mi ero fidato della vostra amicizia, per poco non morivo, prima per le ferite e poi per la fame, in una locanda di infimo ordine di Chantilly, e questo senza che voi vi siate degnata di rispondere una sola volta alle lettere infuocate che vi avevo scritto. Ma c'è Porthos, mormorò la procuratrice, la quale capiva che a giudicare dalla condotta delle più grandi dame di allora lei era in torto. Io, che avevo sacrificato per voi la contessa di Peñaflor. Lo so. La baronessa di... Monsieur Porthos, non schiacciatemi. Avete ragione, signora. Smetterò. Ma è mio marito che non vuol sentir parlare di prestiti. Madame Coquenard, disse Porthos, ricordate la prima lettera che mi scriveste e che io conservo scolpita nella memoria. La procuratrice emise un gemito. Gli è che la somma da voi chiesta in prestito era piuttosto forte. Non parliamo di danaro, per favore. È umiliante, disse Porthos con aria di disgusto. Allora non mi amate più, disse adagio e con tristezza la procuratrice. Porthos mantenne un maestoso silenzio. Mi rispondete in questo modo? Ahimè, capisco. Pensate all'offesa che mi avete fatta, signora. Mi è rimasta qui, disse Porthos, portandosi la mano sul cuore e poggiandovela con forza. La riparerò. Su via, mio caro Porthos. D'altronde, che cosa vi chiedevo? Riprese Porthos con un gesto delle spalle quanto mai bonario. Un prestito, nient'altro. Dopotutto non sono un uomo irragionevole. Lo so che non siete ricca, Madame Coquenard, e che vostro marito è obbligato a succhiare il sangue ai poveri litiganti per trarne qualche misero scudo. Oh, se foste contessa o marchesa o duchessa, sarebbe diverso, e voi sareste imperdonabile. La procuratrice si indispettì. Sappiate, Monsieur Porthos disse, che la mia cassaforte, per quanto cassaforte di procuratrice sia, è forse meglio fornita di quella di tutte le vostre smorfiose spiantate. Allora, mi avete fatto doppia offesa, ribatté Porthos sfilando il braccio della procuratrice dal suo, perché se siete ricca, Madame Coquenard, allora il vostro rifiuto non ha più giustificazioni. Quando dico ricca, continuò la procuratrice, che capì di essersi lasciata trascinare troppo lontano, non bisogna prendere la parola alla lettera. Non sono proprio ricca, sono agiata. Ecco, signora, disse Porthos, non parliamo più di tutto questo, vi prego. Mi avete rinnegato. Ogni simpatia fra noi è spenta. Su via. Monsieur Porthos, ancora una volta, l'ultima, mi amate ancora. Ahimè, signora, disse Porthos, con l'accento più malinconico che gli riuscì di trovare. Quando stiamo per entrare in campagna, in una campagna in cui i miei presentimenti mi dicono che sarò ucciso. Oh, non dite cose simili, esclamò la procuratrice scoppiando in singhiozzi. Qualcosa me lo dice, continuò Porthos, scivolando sempre più nel patetico. Dite piuttosto che avete un nuovo amore. No, vi parlo sinceramente. Nessun nuovo oggetto mi ferisce, e anzi sento qui, in fondo al cuore, qualcosa che parla per voi. Ma fra 15 giorni, sappiate, si apre quella fatale campagna. Avrò un grande affare per equipaggiarmi. Poi voglio andare a trovare la mia famiglia fin laggiù, in Bretagna, per procurarmi la somma necessaria alla partenza. Porthos notò un ultimo combattimento fra l'amore e l'avarizia. E siccome, continuò, la duchessa che avete veduto in chiesa ha le terre vicine alle mie, faremo il viaggio insieme. I viaggi, lo sapete, sembrano molto meno lunghi se si fanno in due. Ma non avete amici a Parigi, Monsieur Porthos? Chiese la procuratrice. Credevo di averne, rispose Porthos, riprendendo l'aria malinconica, ma ho visto che mi sbagliavo. Ne avete, Monsieur Porthos, ne avete, ribatté la procuratrice con uno slancio di cui si stupì ella stessa. Tornate domani a casa mia. Siete il figlio di mia zia, ossia mio cugino. Venite da Noyon, in Piccardia. Avete parecchi processi a Parigi e nessun procuratore. Ricorderete bene tutto ciò? Alla perfezione, signora. D'Artagnan aveva seguito Milady senza che lei se ne avvedesse. La vide salire in carrozza e la udì dare al cocchiere l'ordine di andare a Saint-Germain. Era inutile tentare di seguire a piedi una carrozza trascinata via al trotto di 2 vigorosi cavalli. Pertanto D'Artagnan se ne tornò in Rue Férou. Athos era in casa a vuotare tristemente una bottiglia di quel famoso vino di Spagna che aveva portato con sé dal viaggio in Piccardia. D'Artagnan raccontò allora ad Athos quanto era successo in chiesa fra Porthos, la moglie del procuratore, e come probabilmente in quel momento il loro camerata stesse provvedendo al suo equipaggiamento. «Quanto a me, rispose Athos a tutto quel racconto, sono tranquillissimo. Non saranno le donne a fare le spese della mia bardatura. Eppure, bello, cortese, gran signore come siete, caro Athos, non ci sarebbero né principesse né regine al riparo dei vostri strali amorosi. Com'è giovane questo D'Artagnan, commentò Athos alzando le spalle. In quel momento Planchet infilò modestamente la testa attraverso la porta socchiusa e annunziò al padrone che i 2 cavalli erano pronti. «Quali cavalli?» chiese Athos. «Due cavalli che Monsieur de Treville mi impresta per la passeggiata e con i quali andrò a fare un giro a Saint-Germain». «E cosa andate a fare a Saint-Germain?» chiese Athos. D'Artagnan, allora, gli parlò del suo incontro in chiesa e di come avesse ritrovato la donna che, insieme al signore dal mantello nero e dalla cicatrice sulla tempia, era sua costante preoccupazione. Il che significa che voi siete innamorato di costei come lo eravate di Madame Bonacieux, disse Athos, scrollando sdegnoso le spalle con aria di commiserazione per le debolezze umane. Io? Affatto! Esclamò D'Artagnan. Sono soltanto curioso di chiarire il mistero in cui quella donna è coinvolta. Non so perché, io immagino che essa, per quanto sconosciuta a me come io sono sconosciuto a lei, debba esercitare una qualche influenza sulla mia vita. Ma sì, avete ragione, disse Athos. Non conosco una donna che meriti d'esser cercata una volta perduta. Madame Bonacieux si è perduta, tanto peggio per lei. No, Athos, vi ingannate, rispose D'Artagnan. Amo la mia povera Constance più che mai. E se sapessi dove si trova, fosse anche in capo al mondo, partirei per strapparla dalle mani dei suoi nemici, ma lo ignoro. Tutte le mie ricerche sono state inutili. Che volete? Bisogna pure distrarsi. Allora distraetevi con Milady, caro D'Artagnan. Ve lo auguro di tutto cuore, se ciò può divertirvi. Sentite, Athos, disse D'Artagnan, invece di starmene qui, tappato come se foste agli arresti, inforcate il cavallo e venite a spasso con me a Saint-Germain. Mio caro, ribatté Athos, inforco cavalli quando ne ho, se no vado a piedi. Io, replicò D'Artagnan, sorridendo della misantropia dell'amico che in un altro l'avrebbe sicuramente offeso, io sono meno superbo di voi. Inforco ciò che mi capita. Dunque, arrivederci, caro Athos. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.